è una cosa per serio, diciamo per papà, buonasera. Infatti mi sono corretto, ho detto canale 10 dopo. Oh Zanca, non posso camminare, manco con si tampella. E mai sentito la mia risposta, non conosco la mia risposta. Beh, sì, vera la uno. Scusa, ma tu non ce li hai in casa? Ecco, cose, le cioccolate della veranda, anche di quelle cucine normali, no? Di quelle tipo antiqua, però in alluminio. E gli armatori, regolatori, che gli ha in casa? In casa, sì, di quelle sulla bombola. Basta smontarne una e la metti nell'altra, a me non ti prende il freddo fuori. No, ma non ne ho impianto, no. Cioè le valvole di sicurezza stavo pensando, quelle lì stavo pensando, ma l'impianto non ne ho mai fatto. Non ti sto parlando dell'impianto, tu l'altra volta mi hai detto che a posto di usare quelle con la chiave, usavi quelle in casso. E quelle in casso si smontano da una parte, cioè la puoi togliere da una parte e metterla nell'altra. Sì, già lo so. Ma la veranda fredda non c'è, non c'ho le finestre scorrevoli, è praticamente una stanza. Se è così allora già va bene, non ne prendi molto freddo, magari apri quel momentino per farci uscire i vapori, tutte le cose, e già va bene. Vabbè, Cappa. Non si è sentito nessuno, no? No, io lo sto detto da adesso, devo anche mangiare ancora. E voi da quanto siete entrati? Quando ti hai sentito stavamo scendendo, non da molto, Ehi, gli 8:15 saranno stati, 8:30. Ed è una cosa del genere. Cappa. Probabilmente stanno mangiando, c'è qualcosa al televisore che gli interessa. Magari femmini, che si così. Ed è sempre bello guardare, dai, rifatti giù un poco. E guardo ciò Davi l'altro giorno, che c'ha delle puntate migliori. No, non l'ho visto. Certo. C'ha delle belle donne veramente. Io ho visto quell'altra puntata che stavo guardando l'altra volta, non so se ti ricordi, sono Giulia. Vabbè, c'era la Rocchi una seduta l'altro giorno. Ma c'erano le sfilate, le quarantenni contro le ventenni. È bella cosa. Ma se la femmina è buona, che va già 40 anni o che ne ha già 20, sempre buona, eh? Ah, quello sì. Ci sono donne di 40 anni che a certi di 20 anni li fanno fare le figli. Anche come corpo, Bisogna dire sì, ci sono le brutte, però adesso sta capitando anche un'altra cosa, che le brutte sono più rare, sono più via cucca va. Aspetta. Solo l'attenzione funziona. Aspetta. Solo l'attenzione funziona. Due polpi mammari. sono stomaco proprio. Allora sai cosa fai? All'antica la prendi il latte a temperatura ambiente, quello bianco, e te ne bevi un bicchiere, poi mi dà la risposta. Io già lo bevo il latte in frigo e già. E non hai temperatura ambiente, che meglio. Aspetta che me lo bevo, aspetta. No, me lo bevo così, piano piano. Proprio perché è così. No, no. Quello lì le fa bene, gli rinfresca lo stomaco, gli fa passare il bruciore, la roba che c'ha. Ah, se è così, provalo. Beh, la beba. Uè, Natalie. Allora. Le ho provate, un mondo sono, un mondo, troppo belle. Quella è una buona, è una buona cuffia. C'è la differenza tra quelle e le altre? E infatti le altre le ho tenute per il barattino, e le ho messo la prolunga di quello dello stereo, che ha il regolatore del volume e della prolunga. Quando sono a bruciore di stomaco, roba così, bevo il latte sempre. Se non c'è il Malox, ci vorrebbe il Malox. Principiale. C'è il Malox, mi sa, ma è scaduto. Quello di messo. Dicono che si succhia. Poi si beve. No, è meno schifoso quello che si succhia la pastiglia, c'è sapore buono. Invece quello che si beve sembra calci, mamma lì. Beh, come se stai mangiando un cacco di quelli non cotti, beh, che è la bocca. Non è così. Io, vabbè, Natale. Natale si c'ha mal di stomaco, si droga lui. Allora, perché sono drogato come te, come mamma. Oggi quanto ne abbiamo? Oggi è 7. E ne ha avuto. Ce n'è ancora. Ma di cosa? No, perché 22 c'è una vita, stavo pensando. Se fargli la richiesta già da adesso. Sto un cazzo, 401 ce l'avrei. C'è qualcosa di TV stanotte. Io non dimentico. Il ritorno di giù. Il ritorno dello giù, dove ieri. Ieri. Un cazzo, non c'è nulla, 3-4. Cisca. Ma va a cagare, va. Cioè, ma è nulla, c'è neanche in digitale, non c'è niente. E hanno fatto un bel canale, ma l'altro giorno ho girato di notte, l'altra notte, ho trovato questo coso porno, allucinante, questo canale porno. Vediamo un po' quanti, allora, aspetta, vediamo quanti canali mi dà, ricerca, adesso vediamo quanti canali mi dà, aspetta. Mi sono meravigliato anch'io, era proprio porno porno, tipo filmini in cassetti. Tu senti il comodo, vado. A che ora? È tardi. Non lo so se sono stati 10:30, mezzanotte. Lo danno. Che cosa c'hai? Che marca è tu digitale già? Io c'ho il Thompson. Che è quello che c'è in sala, però quello che uso è la marca Lonfia, non l'ho mai sentito. Io ho Telesystem. Cos'è? Però non riprende quel canale lì. Tipo Teleon lo staccano a mezzanotte, quello digitale non me lo dà. Quindi non se lo prende quel canale lì, facile si chiama. Sì che ce l'ho facile io. Ehi, vi date nei filmini strani. Sì, si è andato a fare sì. K. Ciao Gianni. Buonasera. Buonasera anche a te. Tutto il tuo libro. Ehi, vai tende su una chimica. E vai tende su digitale terrestre. Ho un problema su digitale terrestre. Che praticamente Antenna 1 dopo mezzanotte trasmette in digitale, però io non lo vedo lo stesso. È una ricerca nuova, hai fatto? Mi la faccio adesso già. Aspetta allora. Questo è un po' di questo è stato quello che è uscito. Sì, sono stato aggiornato. Ah, vedrai che ti ha spinto fuori anche quella. Ma io sono il 3 system, cosa devo fare? Sentiamo un po'. Io vado in ricerca, autoricerca, così è. Funziona tutto. Tutto il mio servizio. Mi chiami un interesse, perché questo è quello. Ragazzi, fammi un reset prima. Ma ci ha fatto il reset, già, pure per rimemorizzarmi i canali. Ha rimemorizzato, quindi parti da zero, nuova ricerca. E ha già fatto l'altro giorno, già, due volte. Sì. Ma va, non dovrebbe essere altri problemi. Non lico brutto, orario, aggiorna il sistema. No, quello per la ricerca, io non si firmo. Poi formazione di sistema, ripristina predefiniti. No, sistema predefiniti, sono quello che devo defunti fabbrica, quello sarebbe tutto. Ho capito. Postazione TV non mi interessa. Cucciano, già gioco Gianni tu, il Tetris. Quelli che tasca di scorso della domanda. Quelli che tasca della domanda, appunto. Allora Gaia se si conto. Gianni, vai, ti arrivo più lungo. Un attimino sul pegna. Perché questo non lo stava parlando, sì. Antonio, sono. Ho detto ci risentiamo dopo perché devo fare una cosina. Sì, ciao Antonio. Arrivi 4-4, quindi ti senti. La pagava. Vabbè dai, riprendi Luca. Devo fare una cosa, devo fare così prendo, dalla. Via, a dopo. Allora, nessun canale TV favorito. Cambia modo. Ma che sto toccando rosso. Guarda più. Gestione dei favoriti. TV, niente. Allora io ho la bellezza di 57 canali. Ah, sono il gioco, dove? 57 costano 67. Però tutti non possiamo più fare il tutto, i pacchetti ancora non sono segnati. Quando tu qua c'è la scritta, ho notato che negli altri digitali. Cassette su stelle, ok. Come negli altri leggo software? Software? Cioè? E là c'è scritto questo qua no, per il sistema. Per chi sono la marca? Ma non ce l'ha. Io ho notato che altri digitali terroristi hanno la scritta di aggiornare software. Aggiornare il software, oppure c'è download. C'è anche qua? Questa cosa c'è. Chiamato da lui Bugaggio. Allora, dove devo andare? In configurazione? Preferenze? Sistema. Capitano sistema, no, Richard? Sì, perché l'ultimo del voi. Preferenze, modifica, ricerca, configura, è gioco. Scorrendo questo sistema non si dà altro. Negativo. Cosa configura? Allora, configura. Impostazione TV, imposta ora, orario, aggiorna sistema, informazione sistema, ripristina predefiniti. Aggiorna sistema. Qua c'è scritto stato di rilevamento STB, RAS, avanzamento più della metà. Avanti, sì, certo. Dice qua, collega prima i due STB, poi accendi il STB, e attenti, lo sai? Se già acceso sta andando, cioè deve scaricare il firmware, deve prima trovarlo, e poi lo scarica. Luca, dimmi. Sono Valerio, sono Valerio, che con la fila, con il nome Dario, mio bambino, mio sottotino, che si soffrire, credi di avere. Mi sono giorno quando arrivo dentro il mio sereno, mi sento di piazza tutti a te. Sono Valerio, sono Valerio, che non la testa. Sistema sta andando, timer out, ripenta Robert. E cosa è successo? Ripenta? Robert, sta di stato, avanzamento è più della metà. No, sta andando. Si dice cosa trova. Ma non capisco perché, collega prima i due STB, ora sono. Allora, per il discorso della localizzazione, non c'entra niente. Allora, a che ti serve? A che ti serve? L'aggiornamento stesso, ok, di fare l'ossa in Italia, mentre ti devo volcare in Italia. Vabbè, sta andando, siamo arrivati a 13. Se si scarica il firmware dopo si dice allora cancellazione della del codice precedente, dell'intestazione precedente, si dà l'intestazione software, dopodiché si carica il nuovo firmware, si cancella il vecchio, allora non lo devi spegnere, va avanti e si mette il firmware nuovo. Sta andando, però mi dice qua già ci sono le i colori, dai, rosso, verde, giallo e blu, e mi dice menu, indietro, ok, esci, collega prima i due STB, poi accendi il STB, SDRAV, poi se attendi, e non capisco cosa cavolo sto cosa. Tu forse vedremo un'altra cattura avanti. Eia. Quella è, sta caricando. Ma non devo fare niente. Dai, ok, perché se non lo chiede esce. No, ma devi uscire. Non devi uscire che ha caricato. Se volete trovare l'aggiornamento, qual è il tuo sito? Le sbarrette. Allora, quando tu vai in ricerca, cosa ti dà? Delle sbarrette orizzontali a destra, colorate. Ancora la ricerca. Se qua dico il modello. No, allora. Quando tu andavi a fare la ricerca dei canali, quando facevi ricerca canali, sul lato destro, cosa ti dava? Delle sbarrette orizzontali che si accendevano man mano da verde, giallo, rosso o a destra, a sbarrette proprio, come un cursore. Se non lo ricordo già, non me lo ricordo. Non ho dato due volte. e allora fai aggiornare, bisogna dell'aggiornamento, perché sono quelli che si bloccano, fanno casini. Adesso tu ti prendi tutti i canali. Questa no, quanti blu. Però questo avanzamento è sempre così, eh. Qui dalla parte la tiro la metà. Forse è metà, eh. No, metà, era metà. Metà. Metà, metà. I numeri stanno girando? Sì, sì, chiaro. Sì, sì, stanno andando. 27. Sì, ecco. Ma c'è anche una serie di numeri più in alto. Ce n'è un numero vecchio, un numero nuovo. Il numero nuovo sta avanzando, quello 19.360.7892. No, io sono aggiorno al sistema. Sì, sì. Negativo, no, non va, c'è il timer. Un timer out. Ritenta 30, adesso è la passo al 30. E allora, sta praticamente scansionando le frequenze. Sta scansionando le frequenze, la ricerca del nuovo software. Ma no, questo facciamo andare, poi non si blocca da solo. Sì, che si blocca da solo. Capisco, praticamente dico, sta funzionando tutti i canali ricevibili, diciamo, da quel ponte. Una volta che ti trova l'impostazione software, la carica l'impostazione, dopodiché vede una cosa diversa a funzionare, capisco? Se non si dice, non è stato provato alcun software, ho capito. Tengo quest'anno, 34, ciao, eh. Ok, vai, Gianni, doppio rum. Rum. Rum. Vediamo un attarino, tutti morti. Quanto arriva già? 99? Tutta la cosa per ottenere la frequenza del spaziale. E dice, si blocca e dice di risultato. Qui ci sono trovato l'interpretazione. Ecco, lo facciamo andare. Comunque vabbè, l'avanzamento è sempre a metà, ecco. A metà, però i numeri stanno girando. Sì. E quello conta. Dopo già stata un'indicazione. Qua io vedo in piccolo canale 5. Esatto, ma lo stesso lo stesso. Mamma. E ora, se lo vuoi indicare senza questo diventa, quindi almeno, no? Andate direttamente su, che da un luogo. Senza vedermi giocare, se lo faccio vedere a me. Vedi, si chiama menu, Antonio. Eia! E tu hai il tuo menu, l'altra lì. Infatti, lo stavo spiegando, si dice menu. Ma non mi dice, si dice menu. Allora, sono contento, anche io ho dato menu. Ma non sai cosa ho sentito a proposito di questo menu? Come si dice quella battuta? Che c'è un menù? Piagami la canna e piagami un fu. Chi l'ha detto? L'ho visto un giorno ad Aspirina. Come si dice quella battuta? No. Questo devo farti arrivare. Negativo, sentita. Kappa kappa. QRM c'hai Luca? Sì, a 5. Perché il mio è a 1, eh. E me ne sono accorto che c'è un po' di QRM. Ma che la antenna c'ha? Io lo sento, Santiago 7. Come? Lui arriva tutto qua, così. Ma è già visto, si può che quello. Sì. E la faccia dove si mette? 94, domani telefono a mi già. Lui ti chiama telefono, non è quello, ti do quello giusto, capito? Quello è quello che praticamente ho in posizione che non era mai aperto, io mi prendo sui fronti. Acceso, è là. Hai fatto, scusa un attimo. Vai pure, vai pure. Questo è problema, non questo è problema. Thank you. ma è preso con uguale al mio. No. E perché lo fa anche il mio, come vuoi? Tu? Sono picchiato, fa il battito in peso, ma devo andare in negato, infatti, il picchiato a fare con tipo la batteria, ma... Cos'è? Che marca è? Akai, ha preso da fuori o qua? Ah, gli è rimasto portato. Ed è a trasformatore o a scheda? A trasformatore. Sono idropomande che si mandano lì. Con strumenti e tutto. Ciao. Va bene. Tu dico una cosa, secondo me sono i migliori. Ah, sono le forze normali, già o no? No. Pegati al tipo. Non mi sembra quello del no. No. Mio padre si è andato a un'altra cosa, si è pugilato, io non lo odio. Tu Magari sai cos'è che non ti piace magari che uno alzi le mani e tutte queste cose qua. E infatti non mi piace la violenza. Scusa, non ti ho capito, perché c'è un distratto. Ho detto non mi piace la violenza. Che c'è anche questo distratto? Tema che non mi senti più. Una. Vedere già farà perché non senti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi va, se muori. Non rimane così. Sai che ha avuto qualche sbalzo? È sbalzo di che cosa? Tensione. No, no. È strano. Guarda, si è toccato qualche manopola per te. No, non ho toccato niente, no. Ma che così stavo uscendo bene, no? Sì. Sei sempre segnato. Ragazzi, un po' di niente. macchina per togliere il dubbio che magari non stia andando qualcosa, a metterlo da me. E poi stasera sentivo Santiago 9 e lunedì sentivo Santiago 3. E chi tu? E io sentivo 3. Alghero. Sono cose strane, non lo so. E comunque secondo me era qualche disturbo. Luca c'ha anche, per Alghero c'ha lo spiffero libero. Vola e magari se sei appena appena più scoperto. No, anche se scoperto quando c'è quella giornata e cosa scoprisce. Ma che adesso arrivo non per Alghero, per il volto. Adesso arrivo non per Alghero. Perché prima quanto è arrivato? 8. Vabbè, posso dare un giro di vita e vedi come avete di più anche. Cosa c'ho? Uno stacco strano c'ho. Bene. Io paura? Lo senti? Faceva senso, sì. No. E un bel di volte l'ho fatta. Secondo me è molto importante. Sì. Sempre dovute stazionare. No, qua va tutto bene, te l'assicuro io. Prova a mettersi un UR con tutti gli stazionari. No, ma poi lo smette, lo sai come fa? Smette proprio, vuol dire che sta andando bene. Ma io non devo stare. Che miseria, sta slatterata. Già, alza la porta, già. Se mi gioco drummendi, qua la bascio per fare, mi si trovo. No, no, no. E tu sai da che cosa me ne accorgo io? Ecco. Me ne accorgo praticamente che come... Se io vedo il televisore male vuol dire che l'apparato sta andando male, se lo vedo bene vuol dire che sta uscendo bene. Vasco, Vasco, Vasco! Sì, quei fischi. Oh, non ti capisco, eh? Fischi! Faccio fischi adesso? Coppo, coppo! Cioè, adesso che stanno bene le quattro sto fischiando. Figlia. Per far controllare bene, perché se fai caricare stazionare all'apparato di luci finali. Ma come? Adesso è giusto di parte e sta fischiando. Adesso? Fischia. Fischia ancora. La pacca. Va bene. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andale, andale. ti sei rimesso a posto. Diglielo in cui sei gandonga. Ogni giorno? Con la stessa gandonga, nel senso questi fischi. Pure tu ogni giorno, ma per gli accendi. No, io perché voglio il volume nel corso, adesso non lo so come fa. Voglio il volume alto perché mi piace sentirmi alto quando parlo, non è deciso di finti. E poi mi dimentico di abbassarlo. Perché se parli le cuffie non lo fa, se invece togli le cuffie fischia. Ma forse adesso l'ho risolto il problema. Ma voi sì? Siamo la sera sopra l'alimentatore che avevo. Muglia. Per quello magari si parla. E quindi... Allora è per quello, perché basta un niente tutti questi apparati qua che... E si è fregato. Avanti Gianni. Buona serata. Buonasera anche a lei. Sono un venente. Fra poco mi sto spegnendo tutta quando sto andando a dormire, che non mi lavoro. Perché? Va bene. La mia macchina di prima fitto. Stavo provando quelle cuffie poco fa già. Ci ho comprato le cuffie uguali identiche a quelle di Natalino, ma sono una bomba, è un altro mondo. Ma è Schneider, caro mio. Lo so, io ho sempre avuto le Sennheiser, ne ho avuto due o tre paia, ho avuto anche quelle col coso, quella che usano proprio di G, con le spugnette gialle. Allora, io ho la versione dopo di quelle con le spugnette grigie, di sicuro. No, noi abbiamo preso il modello più classico, diciamo. Quello lì rimane più sportivo, più scheletrito, diciamo così. Gianni, e quanto l'hai pagata? Che cosa? La cuffia. 85 euro. Sì, ma tu andavi, non 30 anni. Che già lo so, qui ce l'avevo 10 anni, l'altra, poi io ho cambiato le spugnette, l'ho comprato al vittorio, si trovano i piedi. Se si sfasciano altre cuffie, a già pari piedi, e che riconosci. È un macello, è un bel macello, è frustrante, però non è parlato, tutto un altro mondo. Ne vale la pena perché quando ti ascolti alle cuffie sembra che sei in mezzo a un concerto, non è la stessa cosa. Sì. Non ce la fanno ragazzi. La pressione sono la giusta. Cioè, diciamo che c'è l'impatto, però non è tutto questo, Perché il massimo massimo sono le corse, ma costano 700 euro mi pare. Che bag è? 500. È il massimo 500 di quelle che ci sono lì. Io questo le capisco con queste, ma no, le mie sono tutte, no? Non hanno, sono che si sentono molto bene, ti dà un effetto abbandono proprio come mi ascolti. No? Sì, perché sono tutti sono anche pensieri, sono richiamanti, tutti una pizza che si dice, è proprio una pizza, sono stati tantissimi, sono stati tantissimi, sono stati tantissimi, ma scusa, però, ma non voglio esagerare per più di 30 anni, adesso, aspetta, hanno pensato, 10, 6, 18 anni. Io guarda, le ho conosciute per le cuffie lì all'età esattamente di 18 anni, trasmettevano con una radio che c'erano quelle cuffie, le ho provate, le ho conosciute e me le sono comprate anche per casa. Perché succede così con le finanze? Non capisco. Non capisco che ti comprano, ti comprano loro. Lo so, è un prodotto stesso. Perché già iniziamo ad essere a cavallo tra l'Italia e l'Allende, siamo due, diciamo così, un film mezzo, e uno è l'altro, non si può essere capito, se non si può essere radio. Bombo, sì. Che ne basta qua? No, ma non c'è nessuno. Dicendo, lo sai, tu lo sapevi che la messaggeria dice che vanno a rischi. Sì, stanno iniziando già. No, non lo sapevo, ma perché qualche lo telefono, perché anche così telefono attaccare a vendere. E comunque i piatti sono già arrivati, con le negozi sono già piatti, ma almeno si possono confrontare. Non sono di quelli professionali, non mi piacciono, sono di quelli da 13, uno costa 151, uno 129, però non mi piace tanto quello da 329, e ce lo sono di compresi, dietro la lucetta che illumina il piatto che gira, ci sono un sacco di cose. E poi alla frizione, puoi fare gli occhietti, tutto qua. Questo è un piatto di questa, di altissima posizione. No, sono rilanciato il disco nero, capito? Questo è quello, una volta. Rilanciato il nuovo vinilo, fare in modo che il tuo milagro è spazio. Il mio è un po' che sto in campo dando una mossa perché la gente non conosce più la musica buona, ci sono stupiti. Lei mi stava dicendo che non lo comprate, ci sono meglio degli altri perché non smontano le frequenze, i dischi vinili. E non? Non smontano le frequenze, non tagliano. No, non è una musica, ma a prescindere da quello è più profondo perché è una riproduzione, diciamo così, più naturale del suono, non c'è un campionamento, non c'è una digitalizzazione, è una sorta di lettura di un microfolco che passa tramite comunque un conduttore elettronico. E quindi abbiamo già una corretta naturale, c'è una sorta di ripresenza come avere un diaco con vero e un diaco con elettronico, e il diaco con vero con un altro suono. Vabbè, che appaga, comunque ho riscoperto lo stesso, ma era un mediano che era fermo, questo non mi lo fa acceso. Questo per i dischi che prestiano, ma ci pare, eh? Non sapere che si può fare il suo figlio di salve elettrico. Sì, questo microfono no? No, i messaggi di salve sono a grattacielo, grattacielo 20. No, grattacielo quello di piazza Castello, là. Sì, stagione. Questa casa è praticamente aria. Questa è una Mariana, questa casa non è più ancora chiusa. La salire in Piazza d'Italia, quindi. La, praticamente dove c'è il grattacielo? Non lo so dove c'è il grattacielo. C'è un giardinetto davanti, dietro un giardinetto, dove c'è per contenere il grattacielo c'è dove si dice. La farmacia di Simon. Di Simon. rosso, l'altro cartaccino. E qual è quello che... quello che dentro si è sentato, No, Moccadon, ce ne prese tutto il Moccadon. No, no, di quella che non lo dirò mai. E forse lui è un incubo, allora io non so, se pensate che fosse ricco, questo figlio che sta prendendo, non lo so, non lo conosco per i finanzi, per i perché di conoscere che sono le banche, vabbè, quello sì, però non so questo, cioè questo è il punto che si entra, no? Allora tu da subito dal corso vai dritto, il corso lo conosci. Ecco, vai sempre dritto e arrivi lì al grattacielo, poi basta che chiedi scusi, la messaggeria sale dove sono, te lo dico subito, c'è un'edicola all'entrata e poi tu sali su e ci sono i messaggeri. Tu hai grattacielo nuovo, Sì, no, non ho capito, allora, per avere l'accesso facilmente, no, naturalmente no, quando chiedo, si pensava che per altro, per avere l'accesso facilmente, l'unico punto da passare, un riferimento, sarà una cosa vicina, ecco, no, sta capito. Guarda, ti posso dire anche una cosa, scendi lì dalla Piazza d'Italia a farsi il corso, no? Trovi la caserma Gonzaga, Piazza Castello, poi vedi un giardino, dentro questo giardinetto c'è il grattacielo. Ehi ragazzo, non so, anche da questo visto, io mi ricordo perché non faccio andato più, da quando non vado andato più, non ci sono più tornato. Vabbè, comunque preso, non sapete niente. No, non so niente. Ma l'ha detto quello che non ho comprato, perché ha detto dove si possono trovare i dischi? Ha detto che ha aperto un suo amico in via Cagliari, poi non sa se c'è più o se si è trasferito adesso. E poi puoi andare anche alla messaggeria di Salve, che c'è un bel po' di dischi. Ma adesso che stanno arrivando anche la Grishenko. Oh, ma che c'è come c'è più di Assassi? Quello di Stamercato, non di Grishenko. Non c'è più. Ah, come si chiama quello che non so ancora? Non ci rimettono anche i pizzoni, forse anche lo diavolo. No, forse. Una cosa mi sento. Comunque, se ci sono e ci sono più di video gradimento, mi auguro che ci siano quelli di Alio Cantare Discoteca poi. Che faccia bene. Ma io parlo sempre di golf. E altre flessibilità che la sono riparata. Poi c'è solo un po' più di tre, e adesso di farne fuori. Ma se tutti questi che ti hanno niente che facciamo, ma la vita? Lo so. Ma mai ascolto anche qui. Di Pai, Pavintos, ACDC, altri cose di Piemetta Folli di Amartoni, che quindi li ascolto. Però come quella degli anni 80 di musica, la discoteca, mi piace il gruppo. Tu, tu però non hai visto, non hai sentito del nuovo gigabit che ho fatto, che c'è delle cifre e tutto il resto dentro il posto, non hai visto? Sì, l'ho visto anche la GBC. Allora, quello l'ufficio era? Costa nemmeno 100 euro, 99 qualche cosa. Ma è quello l'ufficio? No, io l'ho visto nel depliant della GBC. Sì, ma come colore? Non me lo ricordo se è l'ufficio, ma comunque c'ha la radio, c'ha CD, poi c'è la porta USB. Che so che ha sentito di 33? Ma non è roba professionale quella, è roba così, agli unici. Vabbè, ma intanto però si invita a sapere il disco. Credo sì. Perché uno decide di migliorarsi da me. E già li fanno anche professionali, così non si può fare. Io mi ricordo quando erano lanciati, mi hanno fatto così, poi mi hanno fatto così. Staremo a vedere dove andiamo a finire. Visto la 500 l'hanno rifatta, perché non ho capito che la macchina è andata, questo po' di tempo senza farla e poi adesso l'hanno rifatta. Sì, ma vabbè, ma che disco nero, non era da escludere, hanno sbagliato tutto. Questo vede, questi sono i montaggi che hanno fatto dai ragazzini, capito? Hanno la corretta, la nuova generazione, hanno disintegrato quello per la Italia. L'hanno fatto morire tanti anni fa. Una cosa è vedere un DJ che lavora con due piatti, con i dischi sopra. Una cosa è vederlo con questa specie di cose che fa girare le cinque. No, ho detto una cosa è vedere un DJ con due piatti e due dischi e lavorare con due dischi. Una cosa è vederlo che non vedi nulla poi quando c'è le CD. Io non devo sempre dire, no. Però per quando e quando si abbia la soltanto, sono le troppe, ragazzi, mi stai ammazzando già. Aspetta. Sì, perché cosa fa? Il bip. A me non mi disturba, c'ho le cuffie, no, non mi disturba per niente. Ma se l'ascolti in cuffia è un pizzo tremendo, Comunque l'apparecchio mio non c'ha nulla, perché per lui lo sento perfettamente nei aiti. Perché anche non mi arrivava a basso, lo sai stasera? È vero che arrivava a basso? E il carro mi arrivava a Santiago 5, Santiago 3. Dipende, quello dipende dalla posizione. Forse non c'era neanche più di distanza, o se non da minimo, capito? Ma non mi conosce? Penso di sì. Boh, ma lo senti? Sì, lo sento. Sì, ciao popolo. No, buonasera, scusa. Sto facendo questo piccolo singhiffone, ma ci stiamo iniziando a tirare un lungo per il disco nero, ecco. Comunque già, faccio un salto, fai la cortesia, mi fai sapere proprio presto, così c'è, naturalmente se è in zona, là, dico che tu sei vicino. Ci più o meno come sono stessi, ecco. Perché ci vorrei andare, ci saranno tutte, ma non riuscito a trovare il campo, così. Questa storia, sapevo che mi portava, no? E questo è sicuro che sarei andato. Ma non sapevo che a già, stasera io l'ho saputo tale, se no sarei andato già a vedermi. E io lunedì sera libero. Poi da più giorni esco alle 8:10. Ma sai che faccio di andare a andare? Siamo una cabina e andiamo a fuori. E infatti, oppure lunedì sera, non c'è problema. Ci troviamo, andiamo insieme e guardiamo, così mi ha riferito quello che ti sto dicendo, poi che siamo in Roma non lo so. Non è vero allora, buonanotte, infatti c'è quello che ti dice di vedere un po' come la compriamo insieme, scegliamo lì, capito? Però prima bisogna essere sicuri, se no, vabbè, io tanto mi lo spero per lì, e anche mi lo spero per lì, non come dire. Poi decidiamo da fare. Ehi, dai, comincia a pensare andato, non è servito qualcosa di interessante, perché io mi ricordo che era uno dei più forniti messaggi di schermo. Ah, per cui oggi ce ne prendiamo per questo. Ho detto che se è vero, messaggi di Sardegna era uno dei più forniti di schermo. Sì, è sempre stato così, eh. È sempre stato così, ma con questo rilancio adesso io cosa faccio, no? Sì, io me ne faccio una selezione, no? Me ne prendo un centinaio, così piano piano, naturalmente, no? Ogni tanto uno. Ah, ma certo, spazio ci vuole, tocca a riempire le librerie. Ti sto dicendo che, guarda, lui ti lascia figli. Non ne hai manco la minima immaginazione, poi mi dici la piatta di vedere lo stesso, però ti costa il tipo, ho una meccanica quindi non ha preso manco un ICP da 10.000 euro, perché allora le mettevano le meccaniche, quella cucina cassa, non ha bisogno di un'autostruzione, di un'autostruzione, non è una meccanica lineare, no? Appunto la situazione di tipo che si è incontrato del fuoco, questa fusione è più. Si può garantire che guarda, non c'è paragone con più su un piatto tecnico, aiuta, posso dire, più per vedere la parte di pochettino lì, ma l'intervento deve essere utile naturalmente. Come sale per il fatto questo presidente? Le l'hai inserita o le hai costruita anche le testine se non ho capito? No, la testina, ma tu forse non costruisci anche la testina? Lì viene a solo devi fare, devi lavorare col monocolo, di cosa che tu ti sì. No, no, proprio la consiglietta, no? Ah, tu va un attimino a cambiare l'acqua agli olive. Vai, questo è già. La consiglietta dove ci porta la testina. Sì, sì, ho fatto. Comunque anche quelli già fatto. Basta andare da. C'è tutto il problema. Sì, adesso non ti sembra un altarino per ordinare quella roba là. Sì, già me lo stavo dicendo già. Già me lo stavo dicendo. E adesso non ce la vediamo, capito? Perché qui è la vestita iniziale per entrare. E intanto ci sono cose da fare, capito? E quindi bisogna avere. Sì, piano piano già. Piano piano. Guardi il drago, guardi il drago, già la piove, qui. Già la piove, non ha problema. Non ha problema. Però già, non c'è paragone a quel che si fa. Vabbè, posso credere. A parte che la cosa artigianale è sempre più valore. Sì, no, no, ma a prescindere dal valore, sì, è una cosa valore che non conta niente. Poi sono cose di decisione, capito? Decisione che richiedono sì sicuramente si affettano la costruzione però una volta fatte cui danno loro responso e non c'è barba di tassa acustica su cose di quelle non ce n'è, non ce n'è a meno che non mi sembra di 3.000 euro quindi via tanto no. Tanto bisogna lasciare aumentare sì diciamo che sono delle cose dichiarate fatte bene e che non hanno una certa fedeltà come l'ascolto. Ma se questo si è passato il caso di tutti, ma veramente di tutti, tasse anche che possiamo morire di Dio, anche guarda, qui io ho avuto una sorta di tasse, no? Della fine di giugno. È la stessa vista che fanno in Autobus che costano già 5-30 milioni, circa 55 mila euro. Ho avuto le mastre che qua ci sono fatte noi in comune. E lì non si crede che era questa specialità, eh. A parte che dovrebbe avere un finale, giusto. Ma che cazzo mangia corrente, capito? Come? Questo K. Sì, ma poi le cose diciamo fatte a mano. Poi sicuramente sono tutte belle sigillate, senza dispersioni. Guarda, non te immagini, già non te immagini. Non ti faccio una caratteristica, bisogna sentire, vedere, capire che stai aspettando. Che poi, specialmente come si diceva dischi, i prezzi di ordinare, se non li devono fare un silenzio critico. Beh, certamente. Che cos'è? Dell'acciaio sono, no? Sì, sì. Sì, sì, sono quel materiale. Poi, solo naturalmente. Quindi come di cui il resto si sta pensando di tutto in camera separata ma non si tramita. Cos'è un picconico? Sì, il polso, quando si la metta, questo è la prima polso sul cerchio, in un spazio, abbinato in una camera separata, perché qui lavora 16 ore, ma il suo deve lavorare 4. e vuole fare un tubolo su misura per studiare. Sì, sono cose controllate, capito? Simulate, dissimulate, questi 30 di anni non è una cosa complicata così, proprio seria. Quindi mi piace male la macchina, non è una cosa fino a niente, poi si dà, libera tutti i suoni, come si deve, e comunque si fa abbassate le tasse e queste altre basse. Vabbè. E comunque usare 30, 40, 50 per cui sono. Infatti. Ma già, io ti saluto che mi stanno aumentando, dai. Salve a tutti gli avventori ascoltori, mi raccomando, portate avanti sino al termine il vostro progetto, va? Ciao ciao! Ciao, ti sentiamo, ciao! Oh, sono entrato, eh! Andando te ne stai già! Andiamo un mito sopra, ciao ciao, buonanotte! Ciao ciao, buonanotte, dai! Beh, mi sa che è tutta l'ora, anche per me! Ciao, buongiorno, ciao. E questo è un tutto. Stanno bene. Ce la risentiamo domani magari con più calma, sul tardi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, ma le hai migliorato al segnale? Perché te vedo anche a te che sta migliorando. Aspetta, non ho capito cosa hai detto. Te ha migliorato il segnale lì ai tiri. Il tuo? Sì. Hola, hola, hola. Mi sembra 5 il segnale, ora non ricordo precedentemente, comunque mi pare buono adesso. Non lo so, caso strano, ha migliorato tantissimo. Sembra 5 di segnale, io ti sento bene. Se non fosse, vabbè, a parte che la M già lo sai, dovrei usare degli accorgimenti particolari per diciamo così, per ascoltarsi come di quello, bisogna usare un DCP esterno all'audiofrequenza, ma siamo sorprendi, però in AM, adesso in AM, sempre bene. Sì, sì. Oh, ma non è che tu cado a che cosa, no? Perché qua adesso è Santiago 7. No, sinceramente non ho toccato niente. Io sto usando un finale, eh. Io ho sentito che prendimento collegato. Dopo, no, non lo so. Vabbè, là. In certi momenti ma succede un po' a tutti, in certi momenti migliora, in certi momenti no. Vabbè, dai. Io ti saluto. Ci risentiamo alle prossime, dai. Buonanotte. Ciao, pensiamo bene. Ci ascoltiamo alle prossime. Un saluto, buonanotte. Fate cose belle. Ciao, ciao. Va, la guarda il capo, guarda il capo, guarda il capo. Lo fa. Praticamente è tutto in succursaletto, bisogna cercare di isolare bene lì, perché è per quello che lo fa. Ma dovrebbe essere così, però è il caso, è il caso, è il caso, lo fa, glielo fa fare, glielo fa fare. Poi abbassa un po' l'eco, se non ti comprendo niente. Ho detto che è il cavo che glielo fa fare. Beh, certamente. Adesso si sente? No, si sente in un fenomeno. Va bene, no? Va fa. Hai visto? Curie. Ma me l'avevo sospettato però, L'ho sospettato perché adesso è combinato per caso, l'ho sospettato, ma anche l'altro giorno l'ho fatto così. Sì, perché praticamente se glielo metti vicino fa queste cose qua. Soprattutto quando si senza cuffie anche se lo fa un bel, perché c'ha più sensibilità. Ma soprattutto se mi avvicino anche al cavo alimentazione. Senti. Quelle cose bisogna cercare che tu li, bisogna che cerchi che tu le metti distanti. Sì, comunque così non lo fa. No, va bene così, non c'è niente. Invece, ma su, c'è la vizineggia, la rugosa, la rugosa, l'alimentazione delle guardie. Cioè il cavo sempre. Ma anche se tu avvicini il microfono al cavo d'alimentazione lo fa. Perché è naturale. O che avvicini uno, che avvicini l'altro lo fa sempre. Adesso ad esempio, vedi, se io faccio così, avvicino soltanto il microfono al cavo invece dell'antenna, sì. Lo fa, vero? Innesca perché cosa ne so, magari si forma come glielo avvicini, si forma qualche pulsazionare, qualche cosa del genere, fa magari tipo radiofrequenza, roba così, te lo fa per fuoco. Il fatto è che se mi avvicino là, si mi allontano. Perfetto. Sì, perché così. Così lo fa lo stesso, se io lo metto sceso come la poco fa che toccava l'alimentatore, allora lo fa sempre, hai capito? Già non credo. È una cosa che hai imparato a farmi. Sempre da imparare su queste cose qua. Sono strane, molte volte ti dà un bel di rabbia. Per esempio a me quando c'è qualche cosa che non sta funzionando bene il televisore non lo vedo. Sicuramente comunque anche questa ciabatta influisce. È un po' così. Sì, per di voi che me ne avviso, vedi che la lampadina mi sembra che faccio fare il fastidioso. Per esempio, guarda, se io lo vedo adesso avvicino il bagno, vedo, fino alla prima parte, così. Tu hai casino. E poi non te ne accorgi anche tu dal farlo ascolta che non sta andando bene. E beh, io lo sento lì, sì, e per questo senti. Sì, ma lo fa quando avvicina l'alimentazione, lo fa questo coso. Oh, è comunque su una cosa. Come l'ho schermato tutto qua. Fa cosa, perché sicuramente fa, che ne so, magari quelle spie, quelle cose lì fanno tipo magari radiofrequenza, roba del genere. Come ti dura vicini la roba fa casino. Sicuramente così. Vabbè, io spengo tutto. Adesso spengo anch'io tutto. Vabbè. Riprendiamo domani.